questo mercoledì 19 dicembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla legge di stabilità che fa fatica ad andare avanti anche per una questione di stallo politico che tra poco vedremo. Ai comuni 1,4 miliardi, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Lo stallo politico qual è? È quello del Popolo della Libertà che ha deciso in qualche modo di, come ha detto Berlusconi, rinviare le elezioni, e per farlo c'è uno strumento politico che è quello di prendersi più tempo per approvare la legge di stabilità. Primo passo per poi sciogliere le Camere. E allora il Corriere della Sera, Berlusconi, rinviare le elezioni. Repubblica, Monti, non starò fermo ad aspettare. Il Fatto Quotidiano, Berlusconi sequestra le Camere, sulle elezioni decide lui. La Stampa, Monti, pronto l'appello al centro. Anche per il Secolo XIX il PDL vuole il rinvio delle elezioni, così il Messaggero, il PDL vuole rinviare le elezioni. Libero e il Giornale invece si concentrano su questioni economiche e politiche. Per Libero, il piano di Monti, tagliarci gli stipendi. Il Giornale, Berlusconi all'attacco, non moriremo di euro. Mentre il Manifesto titola su Marco Pannella, non la beve, e c'è la foto dell'incontro con Mario Monti, ovviamente c'è il doppio senso, sia non la beve l'acqua per lo sciopero, ma anche non la beve, non crede a Mario Monti. L'Unità, Berlusconi sequestra il voto. Avvenire invece si concentra su un tema che segue da tempo, vale a dire il gioco d'azzardo legalizzato. Azzardo, dalle lobby, blitz in Parlamento, passa un emendamento che dà il via libera a 1000 nuove sale poker. Mentre Pubblico, alla foto di Mario Monti, la solitudine del numero primo, un Mario Monti che non decide. In questo stallo non decide, scorcio di fine legislatura. Sapete che uno dei temi su cui si concentrano di più i giornalisti in questi giorni è il fatto che si sta per chiudere una legislatura, quindi va rinnovato il Parlamento, e molti non avranno più il posto. Gli irriducibili del Parlamento, senza politica muoio. Questo è l'articolo che dovete leggere intanto di Antonello Caporale oggi sul Fatto Quotidiano, pagina 3. Racconta un po' le vicissitudini di tutti i politici che stanno per vedere anche finire un orizzonte di prospettiva politica, una carriera per qualcuno. Per esempio Cesare Marini, che non è omonimo di Franco Marini, l'ex presidente del Senato, ma anche lui Cesare Marini del Partito Democratico. Lasciare questo posto è come dire a un prete di restituire la tonaca, dice. È difficile capire la mia condizione, non voglio esagerare, ma senza la politica io muoio. Per questo motivo ha chiesto una deroga al Partito Democratico, avendo fatto più di 3 legislature, e l'ha ottenuta. È uno dei 10 beneficiari della deroga. Non ho faccende da sbrigare, non ho clientele, tessere, affari. È quest'aria che temo mi manchi, l'ossigeno che ti fa campare. Ne parla proprio così, virgolettato, Cesare Marini. Senza questa politica muoio. Deve esserci amore, scrive Caporale, e chi vuole ci può anche credere. Cesare Marini ha superato da un po' la settantina, agiato di condizione, con un portafoglio di legislature plurime, eppure non ce la fa a dire addio. Ha chiesto la deroga al PD, che gliel'era data iscrivendolo nel registro degli anziani, i cosiddetti veterani. Oppure, insomma, si riepilogano varie vicende come quella di Aurelio Misiti, burocrate di altissimo corso, presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, professore all'università, ingegnere, potente per decenni, è ancora qui e dice: sogno di fare il sottosegretario con delega alla ferrovia Salerno-Reggio Calabria. Per me è una questione di vita e darei tutto, anche il seggio, se mi indicassero là, perché io so come fare, capisce, so dove trovare i finanziamenti, mi comprende, so di essere l'uomo giusto al posto giusto e non mi do pace, e quindi insisto. E di fronte a questo ci sono, tra l'altro Cesare Marini è stato intervistato anche da Pubblico, 74 anni, da Cosenza, giusto che provino a rottamarci, ma pure noi dobbiamo difenderci. Insomma, Cesare Marini, il derogato, dice: io mi difendo così. C'è anche invece chi in maniera forse più dignitosa, commenterebbero molti italiani, dice basta, è finita un'epoca politica. Sul secolo XIX trovate Livia Turco e Pierluigi Castagnetti, due del Partito Democratico, che non hanno chiesto deroghe. Livia Turco dice: mi cercherò un lavoro, ho solo 57 anni, ho fatto il parlamentare per più di 15 anni, ci siamo dati una regola e siccome ho patito molto la storia della casta, sono molto contenta di rispettare questa regola. Così Livia Turco. Beh, complimenti, ora cosa farà? Mi cercherò un lavoro, dice a Paolo Crecchi nell'intervista. Ho solo 57 anni, ma veramente lei può andare in pensione? No, si va a 60. Ah, la Fornero, eh? No, non la Fornero, la Camera ha deciso così, la casta, che poi non è tutta casta, ha stabilito di aumentare l'età pensionabile dei deputati. E qui Paolo Crecchi affonda. Paolo Crecchi è un grande intervistatore del secolo XIX. Affonda, dice, beh, però qualcosa la comuna a Elsa Fornero, la facilità alle lacrime. Piango spesso anch'io, sì, ammette Livia Turco, ma sono assolutamente orgogliosa delle mie emozioni. E allora... diciamo che poi dice, beh, che lavoro scelgo? Beh, avendo fatto il ministro della sanità, forse un ASL posso dirigerla. In realtà no, perché la prima norma che ho fatto approvare da ministro è stata impedire che parlamentari o consiglieri regionali potessero riciclarsi nelle aziende sanitarie. Ah, si è fregata da sola, chiede Paolo Crecchi. Diciamo che ora mi farebbe comodo, comunque qualcosa farò. Sì, poi si potrebbe anche dire che è difficile che un ex politico parlamentare così si danni l'anima per trovare un posto di lavoro, no? Li chiamano i politici trombati. In genere, statisticamente, la statistica è a loro favore, hanno un'occupazione nel giro di 2 giorni. E comunque staremo a vedere. E vi voglio segnalare anche 2 articoli. Il primo è sul Giornale, per la verità è anche di pagina 3 del Giornale. Anche Il Foglio, sulla prima pagina, mette questo tema che ieri ha trattato anche Oscar Giannino, vale a dire il fatto che dalla Francia molti cosiddetti, si potrebbero definire ricchi, fuggono per non pagare le tasse. Il caso più emblematico, che è diventato anche celebre, è quello dell'attore Gérard Depardieu, che ha scritto una lettera che oggi il Giornale pubblica a pagina 3 al primo ministro francese, che l'aveva definito un miserabile, per restituire passaporto e tessera sanitaria. Di Gérard Depardieu la lettera la potete leggere sul Giornale, appunto a pagina 3. Miserabile, lei ha detto miserabile. Com'è miserabile? Così si rivolge Depardieu al primo ministro francese. Sono nato nel 48, ho cominciato a lavorare a 14 anni come tipografo, magazziniere, artista drammatico, ho sempre pagato le tasse, le imposte di qualsiasi aliquota e qualsiasi governo. In nessun momento non ho ottemperato i miei doveri. E poi parla dei film, eccetera. Trovo miserabile, invece, l'accanimento della giustizia nei confronti di mio figlio Guillaume, condannato dai giudici quando era ancora un ragazzo a 3 anni di prigione per 2 grammi di eroina. Io ho sempre pagato tutto, fino all'85% di imposte sul reddito, ma voglio conservare lo spirito di questa Francia, che era bella e spero lo resterà. Vi restituisco per questo il mio passaporto e la mia tessera della mutua, di cui non mi sono mai servito. Non sono qui per lamentarmi né per vantarmi, ma rifiuto il termine miserabile. Chi siete voi per giudicarmi così? Glielo chiedo, signore Rowe, cioè primo ministro del signor Hollande, vi chiedo chi siete voi, malgrado i miei accessi, il mio appetito, il mio amore per la vita, sono un essere libero, signore, e non voglio essere maleducato. Così Gérard Depardieu ha stracciato, ha riconsegnato al passaporto francese, ed è uno dei tanti che scrive Il Foglio sull'editoriale in prima pagina, com'è la Francia senza ricchi. 500 francesi hanno chiesto infatti la nazionalità belga per fuggire alle ricette fiscali di Hollande, una ricetta fiscale che per esempio prevede l'aliquota del 75% sulla parte eccedente i redditi sopra 1 milione di euro, sull'aumento delle tasse sui dividendi, la patrimoniale annuale illimitata, la gravosa imposta di successione. Ci sono migliaia di francesi che vogliono andare anche in Belgio, in Svizzera, nel Regno Unito. Più che un esilio è un esodo, secondo alcuni, secondo Gilles Carré, per esempio, presidente della Commissione Finanze dell'Assemblea Nazionale dell'UMPE, è un inizio di rivolta fiscale. Allora, fanno bene questi francesi, certo, agiati, che di fronte a queste nuove tasse, nuova politica fiscale del presidente Hollande, decidono, come Gérard Depardieu, di mollare tutto e dire me ne vado a prendere la residenza in Belgio con tanto di passaporto restituito. Oggi ne parlano Il Giornale e Il Foglio. Noi ci fermiamo 4 minuti e poi ripartiamo dalla politica con questa domanda. Anche oggi c'è: che fa Mario Monti? Si candida? Non si candida? Fa prendere i voti agli altri per tornare a Palazzo Chigi? Chi lo sa? Allora, 7:34 minuti, sono giorni un po' confusi per la politica, sapete, ogni giorno si attende una schiarita. Intanto la prima schiarita è ovviamente su quello che intenderà fare Mario Monti. Il Premier si candida oppure rimane fuori dalla partita oppure non si candida perché tanto non ne ha bisogno, visto che è già senatore a vita, ma comunque fa una sorta di endorsement, battezza una serie di liste di centro, in qualche modo, il che vuol dire i voti li prendono loro, però portando avanti il mio programma, la cosiddetta agenda Monti. Beh, la politica si interroga un po' su questo e questo è il nodo principale. Secondo La Stampa, in un retroscena di Fabio Martini a pagina 3, Monti ormai ha deciso. Nel fine settimana farà l'endorsement al centro. Questo è il titolo che trovate a pagina 3. Tra l'altro oggi vedrà anche Montezemolo. Da una parte c'è il Movimento verso la Terza Repubblica di Luca Cordero di Montezemolo, dall'altra l'UDC di Pier Ferdinando Casini con l'appendice di Future Libertà. Diciamo, questo è un po' il quadro attorno a cui si muove Mario Monti in questo momento. Prima di pronunciare questo vigoroso endorsement a favore della coalizione moderata incardinata su due pilastri, la conferenza di stampa di fine anno, il Premier rivendicherà il lavoro fatto dal suo governo. Questa è la strategia secondo Fabio Martini sulla stampa. Più dettagliato anche Claudio Tito in prima pagina di Repubblica. Il Premier e il leader del Partito Democratico obbligati a parlarci. Questo è il titolo del retroscena di Claudio Tito. Molti mi definiscono tentato. Questo è un virgolettato attribuito al Premier Mario Monti. Tentato di fare una lista, tentato di candidarmi, di certo non cadrò nella tentazione di stare fermo, di rimanere immobile nel mio scranno di senatore a vita, nell'aspettativa o nella speranza di ricevere qualcosa. Ecco, questo, se è vero questo virgolettato che Claudio Tito mette in bocca al Premier Mario Monti, vuol dire non sto lì in ghiacciaia in attesa di essere chiamato un domani se eventualmente le elezioni non mostrassero alcun vincitore. Non ho la tentazione di rimanere lì immobile nel mio scranno di senatore a vita nella speranza di ricevere qualcosa. L'annuncio ufficiale, scrive Tito, probabilmente ci sarà proprio alla fine della settimana, dopo le dimissioni o lo scioglimento delle Camere, ma ieri Mario Monti ha di fatto già tratto il dado. Dunque anche per Repubblica Monti ormai ha deciso. Il professore ha parlato con diversi esponenti del blocco di centro, ha visto Franco Frattini, ha parlato con Montezemolo, che oggi incontrerà di persona. L'idea è fare una sorta di federazione di partiti e forze politiche centriste, quattro liste così suddivise, quella dell'UDC, quella di Future Libertà, quella dei fuggitivi del Popolo della Libertà, capitanati da Frattini e Pisanu, e quella strettamente montiana con il presidente della Ferrari Montezemolo e alcuni ministri tecnici come Riccardi e Passera ed esponenti della società civile. Questo, secondo Claudio Tito, potrebbe essere il quadro politico entro cui si muoverebbe Mario Monti. Certo, tutto questo sempre che non ci sia lo sparigliamento che ieri Silvio Berlusconi ha annunciato in una apparizione, una delle tante apparizioni in TV. Ieri era a Porta a Porta, tra l'altro ha confermato anche invece Michele Santoro che ci sono le trattative per andare addirittura nell'arena di servizio pubblico. Ve lo vedete voi Berlusconi faccia a faccia con Michele Santoro e Marco Travaglio? Beh, sarebbe davvero la trasmissione non dell'anno ma del secolo. E allora, sempre che non sparigli il fatto che, come annunciato, Berlusconi vuole prendere più tempo. Berlusconi ha detto ci vuole più tempo. Perché tutta questa fretta a votare? Almeno una o due settimane in più. La strategia, secondo tutti gli analisti della politica, è molto chiara. prima si va a votare, prima entra in vigore la par condicio e prima Berlusconi non potrà più fare queste interviste come sta facendo. E invece, al contrario, Berlusconi vorrebbe prolungare il periodo in cui si può presentare un po' in tutte le TV che lo invitano per poter dire la sua senza un contraddittorio politico, ma solo come intervista giornalistica. E allora, eccolo qui, il PDL a rinviare il voto di 15 giorni, racconta Repubblica con Francesco Bei e Umberto Rosso, è il titolo di apertura del Corriere della Sera. C'è da dire che tra l'altro il Sole 24 Ore mette in prima pagina un corsivo, un commento molto sferzante di Fabrizio Forché dal titolo "Un finale da farsa", perché qual è la strategia politica per rallentare il voto? La strategia politica unica è rallentare l'approvazione della legge di stabilità, al termine della quale si devono sciogliere le Camere, così è stato concordato come percorso, e allora uno, se rinvia l'approvazione della legge di stabilità, rinvia automaticamente lo scioglimento delle Camere e così a ricaduta si rinviano anche le elezioni. E allora scrive Fabrizio Forché in prima pagina del Sole 24 Ore, a seguire le cronache di ieri, i senatori del PDL sembrano presi dall'attuare con diligenza l'ordine del fare ammuina di borbonica memoria, tutti a votare, anzi no, un passo in commissione, due fuori, un minuetto per far passare i giorni e guadagnare tempo in vista delle elezioni. Poco importa che sul filo dei voti si decidevano ieri partite importanti come gli ammortizzatori sociali per le imprese in difficoltà, i fondi per i servizi comunali, provvedimenti che possono dare ossigeno, toglierlo a famiglie, aziende, in uno dei momenti più difficili della crisi del paese. Ma a quei senatori non interessa, l'ordine di scuderia è perdere tempo, e tempo si perde. Ora, è vero che si era capito già da un po' che il finale di legislatura non sarebbe stato ordinato e produttivo, ma così si finisce in farsa, e lo spread prima o poi se ne accorgerà. Questo trovate in prima pagina del Sole 24 Ore di Fabrizio Forché, il commento molto duro. E c'è da dire che anche per Marzio Breda sul Corriere della Sera c'è sconcerto, questa parola viene utilizzata affibbiata al Quirinale, dunque attribuita a Giorgio Napolitano, sconcerto al Colle per le tattiche di segno opposto, per la verità, quindi non solo per l'accelerazione del PDL, poi il freno, ma anche per in qualche modo le tattiche opposte di chi non scioglie i nodi, di che fare. Per la verità questi sono retroscena, perché se si giudicano le parole vere, reali di Giorgio Napolitano, va tutto bene dal punto di vista del clima istituzionale. Giorgio Napolitano oggi prende carta e penna al capo dello Stato e scrive alla Stampa una lettera che viene pubblicata a pagina 2. Perché sulla Stampa? Perché ieri Federico Geremicca, ne davamo conto in rassegna, scriveva di un clima glaciale tra Mario Monti e Giorgio Napolitano. Ebbene, ora il capo dello Stato scrive una lettera. Caro direttore, forse tradito dalla sua stessa sottigliezza di acuto osservatore e commentatore politico, Federico Geremicca si è da alcuni giorni innamorato della tesi di una tensione, se non frattura, che sarebbe intervenuta tra il Presidente della Repubblica e quello del Consiglio, e ha creduto di averne trovato la prova in una distanza misurabile ormai perfino fisicamente tra me e Monti. In quanto immerso nella folla degli invitati al rinfresco dopo la cerimonia di ieri, non mi sono trovato accanto al Presidente del Consiglio. Mi spiace che Geremicca non abbia potuto disporre di strumenti idonei a misurare anche la temperatura dei colloqui svoltisi tra noi due in queste settimane, altrimenti non l'avrebbe trovata sufficientemente gelida per avvalorare la sua tesi. E dunque dice Napolitano, smentisce in questa lettera, che ci sia un clima di gelo addirittura tra lui e Mario Monti, e poi ribadisce: il mio riferimento al ruolo che questa volta svolgeranno le forze politiche, al peso che avranno i risultati elettorali, è stato arbitrariamente quasi tradotto nel preannuncio dell'incarico che darò a chi arriva primo per formare il nuovo governo, ma ogni decisione nascerà dalle consultazioni post-elettorali con tutte le rappresentanze politiche e dagli elementi che ne trarrò sul da farsi, non essendo vincolato ad alcuna ipotesi precostituita. Dunque Napolitano che dice, insomma, seguirò il percorso istituzionale e che prevede la Costituzione, elezioni, poi consultazioni con i partiti e poi darà l'incarico senza precostituite ipotesi a chi riterrà opportuno. Vabbè, insomma, come dire, c'è confusione? Beh, abbastanza. abbastanza all'orizzonte. Che ne pensate? C'è abbastanza confusione. Berlusconi ieri appunto in TV ha detto: avete bisogno di me, cari italiani. Lo abbiamo sentito, l'abbiamo fatto sentire anche nel Bar in Onda alle 6.30. Ha detto che l'ipotesi di offerta a Monti è decaduta. Casini e Fini sono orridissimi. Casini è orrido, non starò con lui. Qualche mese fa si diceva forse si ricompone con Fini, con Casini. Ora dice con la Lega si può ricomporre. Ha detto anche sono io che ho invitato Monti al vertice del Partito Popolare Europeo. È stato smentito praticamente in diretta dal presidente del Partito Popolare Europeo Martens, che ha detto no, non è vero, sono stato io che l'ho invitato. Allora Berlusconi ha replicato dice così perché non vuole che io abbia un ruolo. Insomma, tutto chiaro all'orizzonte, no? Come tutto chiara la vicenda di Antonio Ingroia. Per tutti è chiarissima: Antonio Ingroia sbarcherà venerdì in Italia, in diretta, praticamente appena sceso dall'aereo andrà alla convention del cosiddetto Movimento Arancione e in qualche modo annuncerà un suo impegno in politica. È l'ennesimo magistrato che finisce in politica. Ne parleremo alle 8.30. In realtà Antonio Ingroia, in un colloquio da Città del Guatemala con il Corriere della Sera, con Rocco Cotroneo, che va proprio a trovarlo lì, dice io in realtà, ci crediate o no, non ho ancora deciso. Da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Inopportuno correre anche Scalfaro era un magistrato. Questo è il titolo del colloquio che c'è sul Corriere della Sera tra Antonio Ingroia e il giornalista Rocco Cotroneo, che va a trovarlo a Città del Guatemala, dove è abbronzato ma dice a scanso di equivoci: sono stato un giorno solo al mare, prima giornata al mare da quando sono in Guatemala. Parla davanti a un piatto di fettuccine. Racconta Antonio Ingroia: non mi credete, ma è così, io non ho ancora deciso se candidarmi. Verrò in Italia venerdì, scenderò dall'aereo, scriverò il discorso in aereo che farò a Roma e poi discuteremo, valuteremo. Poi guardate, Berlusconi cambia idea ogni giorno, Monti non sa ancora cosa fare. Adesso chi di politica ne capisce meno di tutti, cioè io, deve essere l'unico ad avere le idee chiare. In realtà pare abbastanza certo. Ancora aggiunge Ingroia alla domanda: beh, ma lei non si è esattamente nascosto, è ovunque, TV, radio, articoli, libri, un blog. Ho tenuto dei fili con l'Italia, dormo poco la notte, rispondo alle mail, alle telefonate, scrivo, poi c'è il fuso orario che mi aiuta perché a una certa ora della giornata in Italia si va a dormire ed ecco allora che posso lavorare qui. Racconta: sono venuto qui da solo perché ovviamente Rocco Cotroneo gli chiede: beh, lei non ha neanche preso una casa qui in Guatemala, è chiaramente in una situazione così temporanea. Beh, sono venuto da solo, senza famiglia, e non ho voglia di prepararmi la colazione, basta come spiegazione il motivo per cui sono in un hotel. Comunque qui in Guatemala ho guadagnato in qualità della vita, mi dedico solo al lavoro, mentre in Italia mi chiamano sempre da qualche parte, non mi faccio il sangue marcio a leggere i giornali, qua nessuno parla di noi e parla di me. E poi alla domanda guardi anche Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, sostiene che sarebbe meglio che lei restasse in magistratura. Ma io rispetto tutte le opinioni, risponde Ingroia, ma resto della mia. Anche un presidente della Repubblica, Scalfaro, veniva dalla magistratura. Abbiamo avuto persino questo. Dunque, questo dimostra quanto la polemica sia strumentale. E poi, insomma, alla fine, ma allora, non potrebbe fare a tempo pieno questo lavoro, il lavoro che sta facendo? Potrei, e forse lo farò. Torno in Italia e poi decido. In realtà, pare un po' tutto deciso. Il Fatto Quotidiano, dove Antonio Ingroia tra l'altro tiene anche un blog settimanale dal Guatemala, scrive a pagina 2 in un articolo di Beatrice Borromeo qual è la rete che sta appoggiando Ingroia, vale a dire i supporter sono Gino Strada, Fiorella Mannoia, Margherita Hack e Monio Vadia, quindi società civile. I partiti di riferimento potrebbero essere i Comunisti Italiani, Amico di Diliberto, Rifondazione Comunista, il Movimento Arancione, Di Pietro, I Verdi, Alba, questo marchio Alba. Insomma, tutti questi potrebbero essere, ecco, il partito di Ingroia, tutti pronti a rinunciare al simbolo per convergere su una lista unica, così si legge a pagina 2. Noi invece alle 8.15 avremo ospite il ministro della giustizia Paola Severino, per parlare anche di quello che sta succedendo sulle carceri e con la protesta di Marco Pannella, che avete sentito è giunta al 10° giorno. Ormai un Marco Pannella che non beve, non mangia, anche se ieri racconta Francesco Merlo ha mangiato 2 mandarini per festeggiare in qualche modo la visita del premier Mario Monti, premier che è andato da Pannella a dire fermati. In realtà lui continua lo sciopero. Cosa chiede Pannella? Chiede da tempo, e ora lo chiede in questa forma estrema, una amnistia, così chiedono i radicali, per svuotare in parte le carceri, un tema molto poco popolare, soprattutto il tema dell'amnistia. Ricordate le polemiche anche sull'indulto qualche anno fa. Pannella è gravissimo, scrive il Fatto Quotidiano, tardi per le cure, danni irreparabili. C'è Francesco Merlo che è andato a trovarlo e racconta in un bel reportage in prima pagina di Repubblica, che poi continua per un'intera pagina, pagina 12 all'interno del giornale: il mio digiuno è un'arma di vita e ora sogno una lista per i detenuti. Con chi? Con Vasco Rossi, Umberto Veronesi e Roberto Saviano. Vuole coinvolgere, Umberto Veronesi e Roberto Saviano si sono anche spesi di recente per firmare contro l'ergastolo. Vasco Rossi, che lo ha appoggiato anche ieri, credo con un messaggio su Facebook, lo vorrebbe in lista. Vorrei una lista per i detenuti con queste altre personalità, questo è il sogno di Pannella. Non posso fermarmi anche sulla stampa. Tra l'altro c'è un retroscena di Guido Ruotolo che racconta proprio i numeri dell'emergenza nelle carceri: 70.000 detenuti ormai, a tanto ammonta attualmente la popolazione carceraria, con una capienza massima che sarebbe di non oltre 50.000 posti letto circa. E quindi questi sono i numeri un po' dell'emergenza. Voglio darvi 2 chicche dalla politica, insomma, di quelle che... quella politica che ha fatto un po' arrabbiare molti italiani, quelli mani sul volante, no? Sempre mani sul volante. Ricordate la famosa festa, tutti agghindati con le facce dei maiali, tra l'altro di un paio d'anni fa, ma è uscita durante lo scandalo della vicenda della Regione Lazio. Uno dei protagonisti, colui che aveva organizzato questa festa, dicendo comunque l'ho pagata da me, Carlo De Romanis, ora dov'è? A volte ritornano, racconta il Fatto Quotidiano, dai maiali alle lezioni di legalità. La seconda vita di De Romanis, ritratto alla Princeton University, dove spiega nell'università americana la lotta alla corruzione, affiancato ovviamente alle foto della famosa festa, tutti agghindati da maiali. Alle spalle una lavagna luminosa, la slide illustra il titolo Trasparenza, sotto c'è l'elenco delle cose da fare, pubblicare online i budget e le liste dettagliate delle spese, conti ricevute, descrizioni dell'evento, partecipazione. Sì, è lui. A Princeton, per insegnare come si evitano sprechi e abusi, hanno chiamato un esperto, scrive Paola Zanca sul Fatto. È Carlo De Romanis, consigliere regionale del PDL nel Lazio, già compagno di scranni di Franco Fiorito, diventato famoso per aver organizzato la mastodontica festa con gli invitati mascherati da maiali. Lui, per la verità, era travestito da Ulisse. Ebbene, a Princeton, nella Princeton University, negli Stati Uniti, per insegnare lotta alla corruzione, Carlo De Romanis, mentre Franco Fiorito ha avuto la villa e la casa sequestrate. Racconta il Messaggero a pagina 15, ne è stato contestato anche il danno erariale, per questo la Guardia di Finanza ha notificato a Franco Fiorito il provvedimento di confisca del patrimonio, ha bloccato circa 1.400.000 euro. No, questa è l'accusa di essersi messo in tasca questi soldi. Insomma, sono stati confiscati un'intera villa di San Felice Circeo e una casa, e anche altre 3 abitazioni e 4 terreni. Ah, però, questa è la situazione di Franco Fiorito, che si trova ancora in carcere. C'è un minuto ancora, vi invito a leggere una storia incredibile che il Corriere della Sera pubblica con Andrea Pasqualetto a pagina 17. Il titolo è questo: il bimbo che arriva a Venezia dentro una valigia. Dice: ma com'è? Ebbene sì, un bimbo di 5 anni afghano è stato fermato alla dogana, quello che si dice suo zio, lo portava in una valigia. La gente ha aperto la valigia, dentro c'erano 2 occhi spaventati, quelli di Assim, 5 anni, faccino scuro, in testa il groviglio nero della sua terra, l'Afghanistan, rannicchiato in 60 centimetri per 30, il suo petto si muoveva veloce come quello di un gatto che cerca la fuga. In una valigia bucata per farlo respirare, quello che si è detto è stato fermato ovviamente con accuse terribili. E ha detto sono il padre, poi dopo ha balbettato no sono lo zio, lo sto portando dalla Grecia dei parenti in Germania. È stato fermato, scoperto dal finanziere che fa aprire il trolley, era accompagnato da un adulto che sosteneva di essere suo zio, era diretto in Germania, ora sarà affidato a una comunità. Ma davvero incredibile questa storia, anche terribile, il bimbo che arriva a Venezia dentro una valigia. Ci fermiamo qui, è tempo di Giornale Radio.